Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Quando sono le 9-8 minuti, i funamboli sono tornati. Eccoci qui, con il nostro Peter Bescapè in regia, Alessandro Chiappini a Roma, tutta la redazione con Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Elisa Pancaldi. Veronica, eccoci, buongiorno. Buongiorno, bel biondino, come andiamo? Tutto a posto, tutto a posto. Oggi abbiamo tanti bei temi da affrontare e quindi diamo subito i numeri come al solito. In tutti i sensi, cominciamo subito a dare i numeri. 800 24 00 24, questo è il numero per chiamarci, intervenire e per mandarci degli SMS e dei WhatsApp. 349 238 6666. Tra l'altro, mi raccomando, mandate le sigle in audio, le sigle inventate da voi che poi noi le utilizziamo. È un repertorio, un bottino a cui teniamo molto. Così possiamo scavalcare il classico e la Gentili e Milan. E chi sono? Possiamo andare oltre. La versione era un po' più hard, però insomma va stavo bene. Stavo per, va bene. Sono, evitiamo il licenziamento di prima mattina. Allora, noi vogliamo partire da quello che è successo a Latina, e cioè caso che ripone il concetto di legittima difesa al centro della discussione. Si è riaperto completamente il dibattito, sì, era rimasto un attimo in stand-by dopo essere passata questa nuova legge, no, che è stata approvata a maggio alla Camera e che adesso deve essere traghettata al Senato, con l'idea di riportarla indietro. Quindi adesso si riaccende ampiamente il dibattito tra chi ha posizioni più estreme nella direzione della legittima difesa e chi invece la pensa al contrario. Ma succede sempre così quando c'è un fatto di cronaca. In questo caso, per carità, poi la premessa è sempre la stessa, cari ascoltatori: non faremo certo il processo in radio, non sappiamo come sono andati bene i fatti. Per quanto possiamo leggere dai giornali, un avvocato, Francesco Palumbo, con arma regolarmente denunciata, interviene a casa dei genitori e trova tre ladri. Spara e ne uccide uno, Domenico Bardi. Tra l'altro si scopre che l'ha colpito alla schiena, questo almeno i giornali raccontano. L'accusa infatti ipotizzata nei suoi confronti non è tanto eccesso colposo di legittima difesa, ma omicidio volontario. Perché fino adesso c'è l'autopsia che è l'elemento principale che si ha, da cui si sa che è stato ucciso con due colpi di pistola alle spalle. Una distanza più o meno di 10 metri, ma quello che non abbiamo ancora sono gli esami balistici, per cui da quelli poi in realtà si capirà qual è stata esattamente la dinamica. Comunque, legittima difesa, partiamo da qui. 800 24 00 24. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. Salutiamo l'avvocato penalista Giulia, buongiorno, eccoci qua, e grazie di essere intervenuta, grazie di essere con noi a Radio 24, avvocato, buongiorno. Grazie a voi per l'invito, buongiorno. Salutiamo anche Graziano Stacchio, che per un certo periodo della sua vita è diventato, suo malgrado, famoso. Ricordate anche le tante magliette "Io sto con Stacchio", per chi le vestiva. Stacchio, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Benzinaio a tutti. Di Ponte di Nanto, in provincia di Vicenza, era il 3 febbraio 2015, quando nel tentativo di sventare una rapina alla gioielleria vicino al suo benzinaio, lei sparò e uccise una persona. Stacchio, ogni volta ci risiamo, no? I casi di cronaca riportano la legittima difesa in primo piano. Ci può spiegare intanto che cosa accade psicologicamente e emotivamente a una persona quando interviene? I casi sono diversi, i vostri, però ci aiuti a capire, lei che ha vissuto una situazione simile. Ma guardi, sono vicino alla persona che ha sparato, in sostanza, perché capisce che bisogna provare certe cose. E trovarsi in una situazione così per poterla gestire, con lo stato d'animo che uno si trova, cade tutto, cade la proporzionalità, perché si vede tra individui che attorno, cade praticamente il pensiero di quello che sta facendo, perché va ai genitori in questo caso, che erano lì all'interno, non sapeva cosa fosse successo. No, in realtà no, però i genitori non erano all'interno, non c'erano, hanno chiamato lui, l'allarme era attivo sul telefono del figlio perché i genitori non erano in casa ed erano fuori. Diciamo, era lui e i ladri, questo erano lui. Lui è intervenuto perché nella casa vuota dei genitori si temeva che... Lui sapeva che non c'erano. Sì, lo sapeva che non c'erano. Lui è intervenuto proprio perché i genitori non c'erano. Comunque, diciamo... Comunque, questo è praticamente l'effetto dell'esasperazione che si trova praticamente in questi fenomeni, in questi casi che continuano a esserci. Adesso, i criminali si limitano a andare di giorno a introdursi nelle case, perché di notte, con quella legge lì che è in discussione, che sta praticamente, è stata proposta e che è ancora lì, del turbamento psicologico durante la notte, uno che in pratica è paura questa. E ci si può difendere, e anche la criminalità ha capito e si prendono praticamente delle distanze. Allora adesso lo fanno di giorno. E in sostanza l'esasperazione che c'è in ognuno di noi è così grande che chi poco, chi tanto cerca di difendersi a modo suo. Chi va a prendersi la pistola, d'accordo, che è una cosa... un po' che dispiace perché le persone siano istigate a fare questo. Poi si trova di fronte a certe situazioni che sono ingestibili, perché lo stato d'animo è quello. Sì, ma lei dice lo stato d'animo è quello di una tensione, un'adrenalina, forse un qualcosa da... Tu non sai se sono loro che ti sparano per primo, se tu sei a sparare per primo, questo non puoi saperlo. Ecco, io in quel caso lì, il mio autocontrollo... E per gestire quella volta quel fatto è stato praticamente perché avevo la ragazza dentro, che era consideravo mia figlia, perché per me era come fosse mia figlia, con quello che il precedente che sei stata, quella precedente. Sì, insomma, nel suo caso c'era anche una rapina, come dire, molto aggressiva, era una situazione. Infatti, poi bisogna fare attenzione, tutti i casi non sono uguali, no? Il diverso, io non ho accettato la provocazione perché. Praticamente avevo un po' il sotto controllo quello che era la cosa, e vabbè, erano sbandati anche loro, cioè è tutta una cosa è chiaro. Stacchio, intanto ci ha raccontato, voglio dire, lo stato d'animo, voglio dire, di chi interviene in questa situazione. È impossibile oltretutto Alessandro critico. Stacchio immetteva un altro argomento, mi scusi, molto importante, che è stato uno degli aspetti controversi dell'ultima legge, no? L'aspetto delle ore notturne. Cioè, sì. C'è realmente differenza, e questo si vedrà che succede al Senato, se una rapina avviene durante le ore diurne o notturne? Chiediamolo all'avvocato Buongiorno. Avvocato. Sì, allora, in questa proposta di legge, che però è una proposta di legge che sicuramente... non è né completa né soddisfacente, fanno una strana differenza tra gli orari in cui avviene l'aggressione o in cui avviene il furto. È però scritta in maniera talmente vaga quella che deve essere l'aspetto temporale, che si è prestata già a questa legge una serie di ridicolizzazioni e di battute, nel senso che in sintesi c'è una situazione di maggiore gravità a secondo se si tratta di notte o di minore gravità se di giorno, e ovviamente è venuto fuori un gran pasticcio, perché chi ad esempio nelle ore delle 6 del mattino in certi periodi dell'anno fa luce, in altri periodi non fa luce, quindi chiaramente qui su questo sono scivolati. Le ironie erano state sul crepuscolo, sull'alba, sulle fasce quindi, di mezzo. No? Io quello che ho notato, devo dire, negli ultimi 3-4 anni è che il legislatore cerca di fare delle leggi, ma purtroppo devo dire che non le sa fare, perché ne sto vedendo una dopo l'altra che sembrano mirate a soddisfare un'esigenza, ma poi proprio manca forse una tecnica legislativa, forse non viene calpestata la polvere del tribunale, quindi non si capisce che una cosa del genere in un'aula di giustizia si presterebbe a equilibrio. Tra l'altro, avvocato Buongiorno, oggi un magistrato, Bruno Tinti, sulla Verità, racconta: anche sparare alla schiena poi si vedrà ovviamente al processo, non è di per sé un aggravante, perché la proporzionalità non si basa tanto sull'uso dell'arma o su dove si colpisce, ma sulle condizioni di chi viene attaccato, nel senso che c'erano tre persone, potrebbe essere uno colpito alla schiena ma gli altri due erano aggressivi, cioè questo si vedrà. Ma allora, si può fare questa equazione, sparo alla schiena uguale non è più legittima difesa? È corretto, sì. Il fatto che di solito la maggior parte delle sentenze di condanna riguardano casi in cui la persona che sta difendendo sé o dei beni spara alle spalle dell'aggressore. Perché? Perché in quel caso si ritiene che l'aggressore sia in una situazione di desistenza. Cioè stia scappando. Fuga, oppure, o fuga oppure non aggressiva. Si deve distinguere, da un lato abbiamo la legittima difesa e si viene assolti. Se si va un po' oltre la legittima difesa si è eccesso colposo, e cioè avrei potuto colpirlo con un mattarello e usato un'arma, però non me ne sono reso conto, eccesso colposo. Se invece ho agito proprio al di fuori dei casi in cui poteva essere configurabile una legittima difesa, perché ad esempio il ladro si dava alla fuga, di solito si ha il cosiddetto omicidio volontario. Ma quanto rischia un omicidio volontario? Quanto è di pena edittale? Il minimo è 21 anni. Ma io, ecco, io sono basito. Però per dire, questa legge, ci tengo a dire, io ho fatto esempio di quella che è la legge attuale, secondo me è una legge totalmente sbagliata. Perché il soggetto che si trova comunque a tu per tu con un ladro... Ma ragazzi, ma... cioè rischiare 21 anni, uno va a casa, trova dei ladri, al di là della dinamica rischi 21 anni di carcere. Però nessuno vuol fare il giustiziere, però mi sembra una cosa di una follia. Avvocato, uno degli elementi per cui per esempio gli esponenti della Lega non erano d'accordo su questa legge è che c'è chi addirittura vorrebbe eliminare l'idea del processo per legittima difesa, cioè allora, addirittura guardi, l'elemento della discrezionalità del giudice. Guardi, io le dico una frase che la fa per far capire io come la penso. Spesso la legge è uguale per tutti, ma i giudici no. Cioè, quando ci sono delle leggi che attribuiscono un'eccessiva discrezionalità ai giudici, va a finire che le stesse situazioni vengono giudicate in maniera opposta. Ci vorrebbe una legge un po' più chiara. Io credo questo. Chiunque entra nella nostra proprietà privata, in questo caso è vero, si trattava di un giardino, ma la Cassazione sul punto ha sottolineato che il giardino fa parte della proprietà, è una pertinenza. Sì. Comunque chiunque entra nella proprietà privata altrui accetta conscio stesso di subire una reazione. Io sono completamente d'accordo, e non c'entra la questione del Far West, l'America, perché si chiamano in causa, però vedere che una persona che è intervenuta, non perché è intervenuta a pistolettate così, ma perché è chiamata all'allarme, si trova di fronte a tre persone senza sapere chi sono, senza sapere se hanno un'arma, non hanno un'arma, cioè, e rischia. Però bisogna capire se c'è una sproporzione tra il pericolo che si corre e la reazione che si ha nel momento in cui poi si sparano 6-8 colpi, per quanto si dice avevo paura, li ho sparati in aria, e si uccide una persona in un contesto in cui non ci sono altre persone in casa, la persona viene colpita alle spalle a una distanza di 10 metri, ci sono una serie di questo è quello che dice la legge. Io personalmente, ma conto zero, Alessandro Milan, penso che se uno mi entra in casa e se ho una pistola, io cosa che non ho e sono contento di non avere, sono legittimato a sparare, ma questa voglio dire, e finirei nei guai, mi rendo conto. Oltretutto l'anomalia di arrivare a casa con due caricatori nelle tasche, cioè, forse in un contesto come quello non è più saggio chiamare le forze dell'ordine e andare insieme piuttosto che trovarsi in una situazione di questo genere? I punti interrogativi. Graziano Stacchio, che ne pensa dell'idea che possa rischiare 21 anni di carcere? L'accusa potrebbe essere appunto di omicidio volontario, questa persona. Guardi, è una cosa assurda, perché io pensavo, la mia mente passava su certe cose. Allora, lui vive in un dispiacere perché ha tolto la vita a una persona. Era un pregiudicato, d'accordo, ma lui non ne aveva colpa, era lo Stato che lo aveva lasciato libero, che lo lascia libero, che c'è troppo permissivismo su questo. Poi c'è un altro passaggio, che dopo tutto lui ha fatto il dispiacere, poi c'è praticamente una uno stato forcaiolo, no? Che ti condanna a priori, senza stare lì a praticamente a pensare che questi fenomeni non dovrebbero essere, non succedere in una civiltà moderna come la nostra. E lo Stato non c'è, ci se lo dice da anni e il governo non dà risposte. Queste Ma la sua vicenda processuale è stata lunga, signor Stacchio? Sì, 18 mesi per non andare neanche a processo, per essere archiviato, perché le testimonianze, i rilievi dei RIS e le riprese delle telecamere dimostravano che effettivamente come stavano le cose, no? Cioè lei è stato poi prosciolto, era legittima difesa, questo è stato... 18 mesi per essere archiviato, non andare neanche a processo e spendere 45.000 euro di spese legali. Di avvocati. Allora io dico questo... se una risposta non arriva dallo Stato, se non dovrebbe dalla politica, questo fenomeno non lo riusciremo mai ad arginarlo. No, questo è il rischio, magari Stacchio non lo dice, ma se la politica non dà una risposta, poi i cittadini si sentono anche autorizzati in qualche modo a reagire. Cioè, laddove c'è il vuoto dello Stato, c'è il vuoto di tutto. È un discorso sempre molto pericoloso. Non mi tiro mai indietro quando portare la mia testimonianza. E molto spesso e volentieri qua io vengo invitato a portarla su delle assemblee pubbliche dove si discute di questi di legittima difesa. E questo a pelle si sente la paura delle persone. Ma anche perché raccontiamo lo Stacchio, cioè non vivere avendo tolto la vita a una persona, come ha fatto lei, non credo che sia una cosa bella. Chiunque sia questa persona. Guardi, lei la coscienza se la mette a posto, perché io la coscienza ce l'ho a posto, per carità, perché però il dispiacere che rimane, hai capito? È chiaro. Il dispiacere non ti lascia più. È come colpire una persona che attraversa le strisce pedonali se tu distrattamente hai il telefonino. Sì. Quello, no, beh, qua, è la stessa cosa. Beh, insomma, qua no. In questo caso questa persona, era a fare una rapina, non è che non è se lei ha il telefonino in macchina ha una colpa su questo. Però, avvocato, buongiorno. Sì. Lei che è stata in politica. La politica perché? Ecco, una cosa che io non sopporto è la politicizzazione di questi fatti. Per cui lo dico anche chiaramente, non mi erano piaciute le magliette "io sto con Stacchio" per non tanto per la manifestazione di solidarietà, ma magari per sottolineare un aspetto politico. Si politicizza tutto, si fa un gran can-can. Anche perché non è stato soltanto quello del signor Stacchio il caso, ce ne sono stati diversi e sappiamo che ci sono alcune fazioni politiche che alcuni argomenti li cavalcano in particolar modo. E poi dopo modo. La politica non dà le risposte concrete, no? Quello che dice Stacchio. Allora, io le dico, essendo stata in politica, che credo che tutto il settore sicurezza e giustizia è totalmente tralasciato. Perché? Perché quando si devono dare delle risorse, si scelgono, vale per destra o sinistra, si sceglie più che altro il bonus attizio a Caio, che poi sarà restituito con un voto, piuttosto che dare delle risorse. Come ci dimostra quest'ultima manovra. Esatto, a risorse, a giustizia o a sicurezza. Io credo però una cosa, si dice, questo che dite voi, non si devono politicizzare i temi, è pressoché impossibile, perché ovviamente dall'immigrazione a questo della legittima difesa, a secondo il tipo della mentalità, poi c'è la politicizzazione. Io quello che credo è questo. Siccome è pacifico che questa legge mette sul banco degli imputati l'aggredito, perché oggi sta capitando all'avvocato Palumbo, ma vi assicuro può capitare a ciascuno di noi. Certo. Poi magari a seconda le condizioni, perché ogni caso è diverso, ci sarà una maggiore o minore responsabilità. Io credo che per evitare qualsiasi equivoco dobbiamo avere un coraggio molto che c'è altrove, e cioè proprio stabilire in modo generico che questa non è una licenza di uccidere. Io quello che dico è questo. Una legge che esiste in altri paesi, in cui si prevede che se chi si difende è comunque in una situazione di paura o di turbamento, ha il diritto di reagire, un vero e proprio diritto previsto dalla Costituzione, chiaro, non in mezzo alla strada, altrimenti... No, è chiaro, però nella proprietà privata, sì. Cioè, se io vedo un cespuglio che si muove nel mio giardino, io posso avere paura, invece adesso se io sparo ho 21 anni, ho l'ergastolo. Questo credo che soprattutto quella legge è fatta per le grandi famiglie di 10 persone che si potevano difendere. Chi sta a casa proprio ormai può essere anche una donna sola con un minore, se io sento qualcosa che si muove, vi assicuro che ho paura, non posso svolgere indagini per verificare se la mia situazione è di pericolo imminente, se io ho un mattarello, se la mia pistola è eccessiva. Sì, oppure chiamare la polizia quando c'è uno in casa. No, ma è chiaro. No. Guardi che ci sono tantissimi ascoltatori, vogliamo sentire se sono però concisi per cortesia. Piero da Catania, buongiorno. Sì, buongiorno. Sarò veloce. La mia riflessione, io due riflessioni. Una, io detesto quando la politica utilizza questi fatti per fare proseliti, per fare voti. Sì, e questo l'abbiamo detto. E questo l'abbiamo detto. Due, però ci tenevo a sottolinearlo. Due, ma dico, noi siamo veramente convinti che facendo una legge che depenalizza determinati atteggiamenti di difesa, di non difesa, noi saremo più in grado di difenderci. I ladri ci sono sempre stati e continueranno ad esserci. Certo che ci saranno, certo che ci saranno. Però c'è una maggiore tutela, c'è una maggiore tutela, non rischi 21 anni di carcere. Oltretutto no, c'è anche da chiarire che a parità di possibilità di sparare, il ladro di solito è più abile, no? È una cosa che è solito fare. No, ma non ci sarà nessuna deterrenza ai furti, però non rischio 21 anni. No, no, anzi si rischia che ci siano più vittime, perché a quel punto anche i ladri sono maggiormente incattiviti e sono pronti a sparare. Io volevo dire, continueranno ad esistere, in che senso? Il ladro continuerà a venire a fare il ladro, mia, e questo è però chiaro. Non verrà più con la pistola salve o con la pistola vera, verrà certo. Con l'arma automatica, verrà col mitra. Io vivo in una zona di un certo tipo, certe cose le ho viste, io conosco dei miei, per le persone che a 10 anni sparavano in campagna e facevano va bene segno. Piero, grazie, così lei dice si peggiorerebbe la situazione. Andiamo a Foggia, Antonio. No, è caduta. Paolo da Modena, buongiorno. Paolo. Buongiorno. Buongiorno. Ma io faccio un ragionamento di fondo. Se mi compro un'arma, so che nel momento in cui la devo usare devo sapere quello che sto facendo. Naturalmente se entro in un conflitto a fuoco con dei ladri che mi entrano in casa o che mi minacciano direttamente, ho comprato l'arma e quindi sicuramente la uso per difendermi. Certo. Però nel momento stesso che sparo a uno che scappa a 10 metri di distanza, gli sparo nella schiena, se io ho comprato un'arma devo anche saperla usare, devo anche sapere che in certi frangenti devo sapere quello che sto facendo. Perché sì, io ho fatto il militare nei paracadutisti, la prima volta che siamo andati in missione all'estero, un maresciallo mi insegnò, nel momento che compri un'arma tu devi sapere che la devi usare, perché sennò ti fai del male. Quindi questo devi sapere quello che stai facendo. Paolo, non sappiamo bene la dinamica di come siano andati. No, anche perché Alessandro dicevamo ognuno di noi può trovarsi in queste situazioni ed è assolutamente vero. È anche vero che probabilmente, io parlo per me, io non sarei andata da sola se mi avessero chiamato con un allarme quello in una casa vuota. No, questo però quello è un elemento decisivo, quello perché questo importante caso che riapre il dibattito noi lo stiamo mettendo, lo stiamo equiparando al caso di Graziano Stacchio. No, no, non è la stessa cosa. Ogni caso è diverso, però lì è andato e una volta che è andato a me quello che colpisce effettivamente il panico è evitabile. Se io avessi le forze dell'ordine con me, evito la situazione di trovarmi con due caricatori da solo contro tre persone che non so che intenzioni abbiano. Allora anche in questo caso depenalizzare completamente la legittima difesa ha senso, vado a incentivare situazioni come queste? Allora facciamo così, intanto dobbiamo dare un attimo in pubblicità e dobbiamo salutare i nostri ospiti che ringraziamo molto, l'avvocato Giulia buongiorno e Graziano Stacchio benzinaio, che tutti ricorderete è stato protagonista, insomma, suo malgrado di questa rapina sventata con l'uccisione di un rapinatore. Però continuate a chiamarci 800 24 00 24 perché adesso noi cambieremo anche tema, ma Veronica, siamo aperti sul tema legittima difesa, potete continuare. Su questo argomento poi ci cosa interessa sapere cosa pensano le persone, perché chiaramente tocca tutti quanti, quindi è un argomento molto divisivo su cui ognuno ha la sua opinione. Intanto torneremo tra poco a parlare di tassa sui rifiuti. Ricorderete che a Napoli ci fu un albergatore che è riuscito a ottenere risarcimento, o meglio uno sconto sulla tassa dei rifiuti, perché il servizio rifiuti non funzionava. L'avevamo detto, che avremmo avevamo detto che avremmo avrebbe detto lanceremo la moda, adesso tutti quanti rivorranno indietro la Tari. Ora, non l'avessimo detto a Roma sotto casa mia sono tutti indemoniati. Ci sono quartieri, tutti la Tari, quartieri in rivolta che ora dicono non vogliamo più pagare la tassa perché il servizio non funziona. Perché tra poco è l'estrema razio. Sì. I funamboli. Se c'è uno che tenta di entrare in casa mia, lo apro come un branzino. È pacato il nostro ascoltatore. Ale, ma leggevo però un messaggio di un ascoltatore che dice che detesti il termine divisivo. Che cos'hai contro il termine divisivo? No, io allora detesto divisivo, ma non te lo volevo dire. Detesto tantissimo. Io sono qui per farti venire l'orticario. Detesto tantissimo un'altra espressione. Detto questo. Ma lo usano, ma lo usano tutti. Questa l'avevi detta. Infatti lo abbiamo tu. Avuto l'incauto errore io e Manera di utilizzarlo una volta ciascuno. E tu hai detto ragazzi, non volevo dirvi, però io ho un problema con detto questo. Lo usa il mio grande amico Oscar Giannino. Lo usano tutti in realtà. Tutti quelli che fanno, dicono una cosa. I politici, è l'espressione più usata. Dici una roba, detto vabbè, questo, vabbè, ma perché lo devi dire? L'hai appena detto, vabbè, detto Ale, questo, ma, cioè, ma voglio detto dire. Questo, quale altro argomento divisivo ti suscita fastidio? Anche fibrillazione, do di testa. Ecco cosa usavo poco. Fibrillazione. La fibrillazione della politica è l'argomento divisivo. Però sono in fibrillazione, va bene. Va bene, detto questo, andiamo al tema successivo. Allora, l'avevamo anticipato qualche giorno fa con l'albergatore campano napoletano che ha ottenuto un risarcimento fino in Cassazione perché non funziona il servizio rifiuti e quindi ha avuto uno sconto, credo, di quanto era? Del 70? No, lui l'ha avuto di meno, qui lo chiedono più esoso. 30%. Lui l'ha avuto, mi sembra, del 60%. Del 60%, vabbè. E invece qui lo chiedono tra il 60% e l'80% perché effettivamente questa sentenza ha fatto scuola, cioè tutti qui si rifanno alla sentenza della Cassazione del nostro giovane amico di Napoli che ha vinto. Perché ormai l'estrema ratio, dopo aver chiesto per tanto tempo per favore pulite la città, adesso siamo alla fase 2. Ok, non riuscite a pulirla benissimo, ridateci almeno indietro almeno i soldi della Tari. Delle tasse. Allora, salutiamo Carlo Rienzi, presente il Codacons. Buongiorno, buongiorno. Carlo Avvocato, eccoci qui. E salutiamo anche Katia Pace, che è portavoce del comitato di quartiere San Lorenzo a Roma. Buongiorno, Pace. Buongiorno, buongiorno a tutti. Portavoce di un comitato che chiede esattamente questo? Restituzione? Sì, esattamente. Noi chiediamo esattamente questo, un risarcimento della tassa sui rifiuti, in quanto assolutamente non usufruiamo di questo servizio da più di un anno. Ci ritroviamo in condizioni veramente esasperate e pietose. Penso che non svuotino i cassonetti da più di un anno, non credo. Allora, non svuotano. Allora, su San Lorenzo, con quartiere storico di Roma, un rione storico, è stata. Dove io abito, diciamo, quindi. Perfetto, benissimo. Allora sappiamo di cosa. Sai benissimo di cosa è stiamo lei parlando. È lei che sporca. Pace. Sì, no, non lo so. No, qui lo so benissimo, per questo davo la mia. Ma com'è possibile da un anno non c'è il servizio? Sarà ridotto? Allora, sarà fatto male? Il discorso è questo. Noi siamo stati sottoposti, abbiamo subito una sperimentazione sulla raccolta differenziata che non funziona ed è assolutamente inefficiente per mancanza di personale, di struttura, di organizzazione dei turni, quindi stiamo da più di un anno con gli androni dei palazzi completamente sommersi dai rifiuti. Addirittura saltano turni anche questo per 10 giorni, quindi ci ritroviamo con l'umido, puzze, cose, animali, tope, blatte per più di 10 giorni. Oltretutto la raccolta differenziata porta a porta che c'è in varie vie a San Lorenzo ha completamente fallito, cioè il tentativo di fare la differenziata noi condomini per poi raccoglierla. È per quello che chiedono indietro i soldi. Ma avvocato Rienzi, sulla base di quella sentenza della Cassazione, oppure perché ovviamente si appoggiano voi del Codacons, li state appoggiando? Sì, noi abbiamo messo già sul sito un atto di diffida da inoltrare individualmente da tutti i cittadini e non è che solo la Cassazione, perché c'è un decreto legislativo del 93 che dice che quando non c'è una raccolta di rifiuti, cioè lo svolgimento di gestione di rifiuti viene fatto in grave violazione, diciamo, delle regole e degli standard, bisogna pagare di meno, c'è il diritto a pagare di meno. Quindi la Cassazione con quest'ultima ordinanza ha fatto chiarezza perché ha stabilito che questa riduzione praticamente c'è sempre quando c'è questo disservizio, anche se non è responsabilità diretta del Comune, perché in questo caso potrebbe essere dell'AMA, potrebbe essere dei raccoglitori della spazzatura, non ha importanza. Ma come si fa a dimostrare che non siano, come si fa a dimostrare che non sono i cittadini magari a essere un po' distratti a buttare le cartacce per terra? No, non sto dicendo in questo caso, questa tua obiezione non regge molto. I cittadini hanno diritto di essere distratti, non è questo No, però se io trovo un materasso per terra, non è che è colpa di chi non l'ha tolto, capito, di chi l'ha messo. Sicuramente questa è una maleducazione, è un modo di vivere che non è accettabile ed è criticabile, ma questa minima incidenza di singoli cittadini che sono così maleducati non sposta assolutamente il complesso della situazione di mancanza di correttezza e di completezza nella raccolta dei rifiuti, che soprattutto a Roma è sotto gli occhi di tutti e che noi faremo certificare alle ASL direttamente, cioè questa situazione d'altro crea una... Certo, questa è una saggia cosa, perché ci problema sono di rischio della salute, topi, della salute. Certo, gabbiani che assaltano i cassonetti. Io li adoro i gabbiani, quando vengo a Roma adoro i gabbiani. Ti piacciono? Li adoro. Ma vedrai, so che ci viene a trovare nei prossimi giorni, te ne faccio trovare proprio un comitato d'accoglienza. Renzi, che dice? Cosa avete contro i gabbiani? Ha fatto un solo gabbiano sul suo terrazzo di casa e vedrai che cambia idea. Sì, ma infatti, ciancia, parla perché c'ha la lingua in bocca. Ho i piccioni a Milano, cosa c'entra? Ma Katia Pace, cosa volete in concreto? Cioè, quanti soldi avete anche quantificato, una percentuale di quello che volete dietro? Guardi, se dobbiamo veramente quantificare, l'AMA già sta sull'orlo del fallimento. Io penso che gli daremo il colpo di grazia, perché noi chiederemo assolutamente danni sotto tutti i punti di vista, perché non solo non abbiamo avuto un servizio, lo stiamo patendo e accusando ogni giorno, con danni di vivibilità, danni alla salute, danni d'immagine. Sì. Questo è un quartiere che si trova al centro di due grandi stazioni di Roma, stazione Termini e Tiburtina. Arrivano i turisti e vedono un paesaggio spettrale. No, è vero, perché è uno dei primi posti sia da Termini che da Tiburtina in cui ci si imbatte, cioè sono 3 minuti, 4 minuti a piedi. Sì, però Veronica, se portate avanti questa cosa, poi dopo affossate ulteriormente le casse del comune, quindi l'AMA ulteriormente non avrà il servizio esteso. Se portate avanti, adesso sono diventata io che rivoglio la Tari. 2 secondi ed è andata così. Voglio farti presente, mio caro collega, che ci sono tutti i quartieri di Roma, anzi, improvvisamente si è trovato un asse trasversale che va dai Parioli a San Lorenzo, passando per Trieste, di protesta collettiva, perché dopo la sentenza della Cassazione tutti quanti dicono: se c'è stato un precedente, già che i rifiuti non vengono tolti, a questo punto io rivoglio indietro la tassa. Se ci fosse stato Renzi sindaco di Roma, sarebbe tutto diverso. Peccato. Noi faremo un'azione collettiva proprio per chiedere in massa l'istituzione della tassa. Ma tutta, quindi totale, un'azione assolutamente, non solo totale, dovremmo più veramente danni, essere risarciti dei danni. Di tutto quello che stiamo subendo ogni minuto, ogni giorno. Inoltre stiamo portando avanti una petizione con una raccolta di firme poter passare da zona verde a zona rossa, perché noi non siamo diversi da Trastevere o da Testaccio. Noi accogliamo la movida ogni sera. Inoltre, residenti censiti, vivono a San Lorenzo centinaia di studenti fantasmi in cui non hanno un contratto d'affitto, quindi l'AMA questi non li considera, ma questi producono rifiuti. Se sono fantasme uno non può saperlo, però i rifiuti restano comunque lì, quindi poi ci vuole una logica gestionale. Questa però è vittima non devo difendere l'AMA, però è vittima se non sa che ci sono delle persone che abitano e quindi non le può censire. Comunque vedremo come va a finire, Katia Pace e Carlo Renzi, vi ringraziamo. Oltretutto un altro piccolo paradosso da segnalare, che molto spesso vengono multati gli amministratori di condominio. Mi sento un po' in colpa, però cosa c'è? Non vorrei che adesso facessero anche a Torino, a Milano. Allora, tu hai detto, ascoltatori di tutta Italia, adesso richiedete indietro la Tari. Io sono il paladino della Tari. E adesso, alla prima cosa, subito inizi a avere paura. Ho e te tirato la fai il sasso adesso. Sì, coraggioso. Te la sei presa con l'AMA? Allora, l'AMA deve sapere che tutto parte da Alessandro Milan. Assolutamente. Che ha mosso il paese. Andiamo al traffico. Il Robin Hood dei rifiuti. Andiamo al traffico, che poi c'è il funambolo Leonardo Manera che qui si aggira. I funamboli. Siamo qui, c'è Valentina che ci chiama da Roma. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo solo raccontare in due battute proprio la mia esperienza. La sua collega diceva tanto: chiamate le forze dell'ordine, perché l'avvocato non ha chiamato le forze dell'ordine prima di andare in casa. Allora, io ero in casa con i miei genitori, sono entrati i ladri, li abbiamo sentiti. Mio padre è entrato nella mia stanza, ho preso il mio cellulare, chiamato il 118. I carabinieri, dicendo espressamente che c'erano dei ladri in casa, sono arrivati un'ora dopo. Ah, però. No, certo, ma io non dico che i tempi siano rapidi, però un conto, ripeto, è nel momento in cui sono in casa. In quest'altro caso non erano, c'erano dei ladri in casa e si è intervenuti dall'esterno. Io parlavo in generale, cioè come regola. Però Valentina, insomma, ci racconta la sua storia, la sua storia è quella di uno che fa a quel punto, come è finita Valentina? Se uno avesse avuto un'arma, probabilmente l'avrebbe usata. Se fosse stata in grado di usarla, probabilmente io non sarei qui adesso. Cioè, questo dico solamente. No, ma certo. Sono anche una collega del collega avvocato, quindi probabilmente avrei fatto la sua stessa fine. Mi auguro che non vada a finire male. No, ma è chiaro. Valentina, grazie. Insomma, ognuno poi può avere le proprie testimonianze. Leonardo Manera avrà la sua sicuramente di quando. No, in questo caso. La domanda è: ma Manera era il ladro o era il rapinato o il rapinatore? Mi è capitato di abitare in una casa dove sono entrati. Abitavo in collina un po' di anni fa, e in una casa in collina, e una volta arrivarono i rapinatori. Mio padre, però, e anche i vicini di casa avevano tutti delle armi, e sparando in aria questi se ne andarono, insomma, quindi lo utilizzarono come forma dissuasiva, diciamo così. Comunque vedi che prima l'avvocato Bongiorno ha detto una frase che ci avevi anche regalato tu, quando ha detto la giustizia è uguale per tutti ma i giudici no, che a me ha riecheggiato la famosa frase del tuo professore. A parità di condizioni, certo. Però cari funamboli, c'è un altro argomento di cui si è parlato molto in questi giorni, che è il produttore televisivo e cinematografico Harvey Weinstein, che sfruttando il suo ruolo avrebbe molestato e violentato anche molte donne. Allora, io facendo questo lavoro da 30 anni ho avuto varie occasioni in cui mi sono imbattuto, diciamo, in situazioni più o meno di questo tipo. Per esempio, ve ne cito velocemente due. Stavo cercando di mettermi con una ragazza da molto tempo, più di 6 mesi, lei non ci stava mai. A un certo punto un mio amico produttore, per farle uno scherzo, le disse che io dovevo condurre una trasmissione e avrei scelto io la partner femminile. In quel momento il suo atteggiamento cambiò completamente, cioè cominciò lei a cercarmi, facendomi capire che anche sarebbe stata disposta a venire a letto con me. Siccome io sono una persona, diciamo, abbastanza onesta, le disse che era uno scherzo, e lì il suo atteggiamento tornò come prima a darmi dei grandi 2 di pic. Poi ricordo una volta ero in uno studio di pubblicità e arrivò trafelato un signore, andò dal direttore dello studio e disse: guarda, devi organizzarmi un provino finto, perché ho in macchina una che mi ha detto che se le faccio fare un provino ci sta. Non so come è andata a finire questa storia, un po' triste però. E poi la terza esperienza, ero a fare l'ospite in un concorso di bellezza minore provinciale. Alla fine venne da me una mamma con la figlia di 17 anni e mi disse guardi, so che che lei fa delle cose in televisione, mi disse: se dà una mano a fare qualcosa a mia figlia in questo settore, poi potete uscire insieme, lei e mia figlia. Mi disse, con ragazzi di 17 anni, fu la mamma ad offrirmela. Adesso, io poi ovviamente dissi che non avevo il potere per fare nulla, no? Però facendo questo lavoro ho visto tante circostanze in cui gli uomini cercano di utilizzare il potere in cambio di sesso, e anche le donne a volte utilizzano il sesso come merce di scambio. Per capire per quale motivo succedono queste cose, secondo me bisognerebbe un po' indagare sulla natura umana. Tra uomini, nei rapporti tra uomini e donne, ci si scambia aspettative per il futuro in tutti gli ambiti: economia, politica, lavoro. Per esempio nel lavoro io lavoro e mi aspetto di essere pagato. E così anche in amore. Quando per esempio due persone si dicono ti amo, non stanno solo esprimendo un sentimento, stanno sottintendendo che hanno delle aspettative reciproche. Quando tu dici ti amo a una persona, in realtà stai sottintendendo che sei disposto a prenderti cura di quella persona, sei disposto ad andare a fare la spesa con lui o con lei al sabato al centro commerciale. Tu donna sei disposta a sopportare lui quando russa, e tu uomo sei disposta ad aspettare lei quando si trucca e a guardarla poi quando si strucca. Insomma, quando dici ti amo, in realtà stai dicendo soffriremo per sempre. La differenza nei rapporti d'amore rispetto agli altri rapporti umani qual è? che in tutti gli altri rapporti umani c'è sempre un ruolo che viene prima della nostra vera identità, ruolo che può essere quello di datore di lavoro, di capo ufficio, di produttore come Weinstein. Invece quando c'è l'amore vero non importa che ruolo sociale hai, è importante chi sei, qual è la tua identità, identità che se c'è l'amore l'altra persona riflette come uno specchio magico che fa vedere solo i lati belli di quella persona. Ed è per questo, per esempio, che quando c'è l'amore, se a lei manca un dente, tu, uomo innamorato, vedi solo il sorriso. Se lui è calvo, lei vede solo gli occhi. Se la sera lei mette il pigiama con gli orsi, tu, uomo innamorato, la mattina dopo vai a pescare le trote nel torrente. Il tuo sogno erotico diventa l'orso yogi. Nel caso del produttore Weinstein, ovviamente, non si parla d'amore, ma si parla solo di sesso. Ma con l'idea di fondo, immagino che se la donna c'è stata, in fondo le è piaciuta. Eh no. Se ha accettato ha solo subito un ricatto schifoso, ma soprattutto di tutta questa storia la parte più triste è che assimila le relazioni intime, quelle dove c'è di mezzo il corpo, a un puro rapporto di lavoro tra persone dove conta solo il ruolo che hai. Sarò ingenuo, ma penso ancora che se una donna viene a letto con me forse un po' le piaccio come persona, e forse è per questo che al momento sono single. Vai Milan, spogliati. No, scusa. Ora. Va bene tutto, ma teniamo. No, questa è una cosa su come funziona in amore, sul ruolo, identità. Do anche un consiglio di lettura se qualcuno volesse leggere qualcosa del sociologo Niklas Luhmann, che parla anche di queste cose. Wow, ragazzi, ma questo è un momento culturale talmente alto per cui io esco. Ecco. Ma Manera non può essere single, è così sentimentale e romantico. Ma come mai è così? Ma lanciamo una grande campagna. Ma lanciamola davvero. Invece stanno sempre tutti con tutti. Esatto. Io sto con Manera, io però poi ci sto Manera, davvero, esatto, non sì. Ci sto per dire. Allora, tra l'altro potete farlo anche in contemporanea, cioè può avere più fidanzate, fidanzati. No, ho deciso che la prossima volta se mi rifidanzo mi sposa, non l'ho mai fatto nella vita, se l'ho convissuto voglio andare verso questo passo finale del matrimonio. Sì, ma lo dici come dire così, ho fatto tutto. Cioè, sì, ho fatto sposarti, tutto. Cioè come ultima, proprio estrema ratio, sì, ultima ipotesi. Quasi con una noia. No, siccome ho fatto molti errori nella vita, vorrò completare anche i miei questo. Errori anche col giorno del matrimonio. Ecco. Pensa quando poi ce lo racconterà Ale. No, è bello perché spero che ci inviti almeno alla celebrazione. Sai quanti matrimoni ho fatto io come finto cameriere? Ero lì, mi ricordo. Tantissimi, sì, sì. Ma noi testimonieremo, Leonardo, facciamo i testimoni io e Milan. Adesso vediamo, cercherei, non lo so. già mette le mani avanti. Dipende dal regalo. No, è vero, un giorno ci racconterà quando faceva il finto cameriere e ha rischiato le botte, anzi un paio di volte credo che le abbia anche prese. Sì, mi hanno salito perché pensavano fossi un vero cameriere, anche se facevo delle cose un po' strane, quindi erano un po' ubriachi e mi hanno messo le mani addosso. Vabbè. Anche al matrimonio di questa un calciatore, la teniamo in serbo per la prima volta. Sì, sì, sì, di un calciatore famoso all'epoca, non faremo mai il nome. Dai, la seconda ora di Funamboli arriva dopo il giornale radio. State con noi. Hai problemi di stitichezza? Hai già provato tutti i rimedi, ma nessuno ti fa accomodare sulla tazza? Allora prova ad assaggiare i biscotti di Nonno Piero, i biscottini in offerta a 30x2 che ti daranno il piacere desiderato da tempo e che si abbinano a meraviglia non solo alla tazza del latte. Biscotti di Nonno Piero, tutto il gusto della libertà intestinale. I funamboli. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. Poi c'è la versione di Di Pietro di Detto Questo che è Ci ho detto. You feel alright when you hear the music ring. Alessandro, la frase che odio io è per il bene del paese, detto dai ministri. Però a me ci ho detto non dispiace tantissimo. Lo sapevo, Bastian contrario. Ci ho detto. Allora, c'ho da detto. Oggi. Ma lo dice detto così, Alessandro. Anche Leonardo dice detto questo. No, io lo dico raramente detto questo. A me dà più fastidio il come dire. Come dire. Cioè anche ci come dicono dire. Al netto di. Al netto di sì, perché economico innervosisce, al netto di bello. Ti piace? Eh? Allora, piace, signori, dobbiamo fare una smentita. Ma al netto di questo, tu volevi fare una rettifica caso? Sì, c'è una rettifica da fare, attenzione. Ci ha scritto l'ufficio stampa del sindaco di Montemurlo, in provincia di Prato. Ieri abbiamo detto, perché la signora Gabriella, ascoltatrice, ci ha tratto in inganno. Abbiamo, adesso. Io ho detto. Che ha fatto la signora Gabriella? Ha detto che nel comune di Montemurlo hanno pubblicato l'elenco degli evasori, ieri ne discutevamo, ci ha scritto il sindaco, o meglio la portavoce del sindaco, a dire: non è vero, non abbiamo mai pubblicato sul sito istituzionale alcuno elenco di cittadini che non pagano le tasse. Se la vostra redazione è in possesso del link riferito dalla signora Gabriella, ce lo forniate, per favore, altrimenti rettificate. Il comune ha ragione, perché quello che è successo, Leo, devi sapere che automaticamente, subito, la sciocchina credulona si è fiondata sul computer e ha cominciato a cercare questo link dicendo: e noi ci abbiamo, il Montemurlo è il primo caso, il perché garante della privacy ha fatto un'eccezione. Perché io mi fido ciecamente dei miei ascoltatori. Ma quindi non ho capito, c'era questo link? Non c'è nessun elenco di evasori. Il comune di Montemurlo non ha pubblicato alcun link con alcun elenco di evasori. Smentisci bene, che non hai smentito abbastanza. Smentisco formalmente. Dai la stessa importanza che hai dato alla notizia. Non smentire con tre righe. Non è che la rettifica conta meno della notizia, Milan. Peter, passami un attimo dei ceci. Ecco qua. Sono in ginocchio. No, vedo ancora il monitor che non sei in ginocchio. Giù. Sono in ginocchio sui ora ceci. Ginocchio, Facebook sì. Mi è testimone. Sono in ginocchio sui ceci e dico che il comune di Montemurlo non fa queste cose. Stiamo facendo una pubblicità al comune di Montemurlo inusitata. Sì, sindaco, io mi scuso per il collega e adesso, dopo l'inginocchiatoio sui ceci, vedremo se hai spiato la sua colpa. C'è qualche frustata. Il anche cilicio. Il cilicio non si vede ma si sente. 10:11 minuti, la seconda ora di Funamboli inizia con il funambolo del giorno. Nome: Matteo. Cognome: Dell'Acqua. Età: 30 anni. Ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Matteo ha vinto il premio Bologna Award 2017 per la produzione agroalimentare sostenibile. Poi dici giovani, che poi sono uomini ormai, 30 anni, di cui andare fieri. Matteo Dell'Acqua, buongiorno. Buongiorno a tutti. Esperto buongiorno. Di genoma della Sant'Anna di Pisa. Ma questo premio è ottenuto con agricoltori etiopi, quindi in un luogo dove l'agricoltura è fondamentale, mi sembra di capire. Esattamente, infatti questo premio lo condivido in realtà con due comunità di contadini di sussistenza dell'Etiopia, che sono le comunità di Melfa e di Workaye, con cui abbiamo appunto lavorato la nostra ricerca scientifica e che siamo riusciti a portare. Abbiamo portato due rappresentanti, donne di queste comunità a Bologna, siamo stati molto contenti di ritirare il premio con loro. Bello. Ma sostanzialmente che cosa avete fatto? Cioè, tu hai studiato insieme a dei contadini etiopi per trovare questo genoma? Sì, l'idea è che noi come genetisti, come studiosi della genomica, quello di cui ci occupiamo è appunto studiare quali sono le basi genetiche delle caratteristiche del grano, in questo caso, che riteniamo desiderabili di trovare in campo, quindi quali sono i geni che sono alla base della resa, dell'altezza della pianta, dell'epoca di fioritura e via dicendo. Quello che abbiamo fatto in questo studio è stato cercare di cambiare un po' il paradigma con cui di solito questi geni vengono ricercati, e quindi invece di misurare noi stessi le piante, abbiamo coinvolto delle comunità di contadini di sussistenza per misurarle loro stessi. Proprio partendo dal presupposto che se noi conosciamo la genomica, la genetica, questi contadini conoscono meglio di noi il grano e soprattutto il grano di cui hanno bisogno. Quindi nelle mettendo insieme le due esperienze si può ottenere il grano migliore per quelle condizioni atmosferiche, di terra, eccetera, e per garantire una sussistenza. Quindi l'avete fatto sul campo là in Etiopia? L'avete fatto. Esattamente, sì, dovete considerare che l'agricoltura dell'Etiopia è molto diversa da quella a cui siamo abituati qua. Questi contadini sono contadini che vivono negli altipiani, che utilizzano pochissimi input, vuol dire che non usano fertilizzanti, non usano pesticidi, non usano irrigazione, quindi coltivano il loro grano in delle condizioni del tutto marginali. E l'idea è proprio quella di utilizzare la loro esperienza, l'esperienza che hanno accumulato crescendo il grano in queste condizioni, per produrre del grano che vada incontro alle loro necessità. Ma infatti quello che avete fatto, Matteo, sostanzialmente è stato evitare di estrapolare le conoscenze dal contesto e fondere la teoria con la pratica in loco. Esattamente, sì, abbiamo lavorato a lungo con queste comunità di contadini nelle comunità, insomma, proprio dove vivono loro. Abbiamo lavorato fianco a fianco con loro per 10 giorni, valutando centinaia di varietà di grano insieme a loro e ascoltando quello che ci dicevano. E poi, quando siamo tornati a casa, abbiamo messo questa informazione, abbiamo incrociato questa informazione con l'informazione che ci deriva dalla genomica. Senti, ma adesso non è che ce le ritroviamo questo grano etiope ecosostenibile nei supermercati occidentali a prezzo triplicato? No, noi non siamo coinvolti in questa cosa, ma non credo proprio, che siamo molto lontani da questo. No, tra l'altro dell'acqua, bisogna capire anche questo. Voi avete dato uno strumento in mano a questi contadini, cioè, nel senso, tu hai vinto un premio, ma loro che cosa ne hanno guadagnato e in cosa ne beneficeranno nel futuro? Beh, allora, noi abbiamo l'ambizione di credere che, e comunque abbiamo dei dati che lo dimostrano, che in qualche misura beneficiano ovviamente anche della nostra ricerca. La nostra ricerca è una ricerca di base, quindi ha un'applicazione che è abbastanza spostata in avanti nel tempo, però già ora in realtà il lavoro che portiamo avanti con questi contadini va al di là della singola ricerca che è stata premiata, e insieme a loro identifichiamo nuove varietà, miglioriamo la diffusione, la conservazione di queste varietà nelle loro località, e questo ci sta dando delle grandi soddisfazioni e lo sta dando anche a loro. Poi in realtà la vittoria del premio, che è anche un premio in parte monetario, nel senso che ci viene assegnato una certa quantità di denaro da spendere ovviamente per queste comunità, e insieme a loro decidere come fare per cercare di migliorare le loro condizioni. Ma dal punto di vista umano ti volevo chiedere invece, che genere di esperienza è stata? Beh, spaziale, nel senso che dal punto di vista umano è una cosa assolutamente straordinaria, perché questi contadini sono delle persone, come immaginerete, che vivono una vita estremamente semplice, ma che sono straordinariamente entusiasti di raccontarci tutto quello che loro conoscono su quello che coltivano, perché sono dei profondi conoscitori di quello che hanno nei campi, e questo chiaramente è dovuto anche al grado di dipendenza che hanno con quello che coltivano, e sono assolutamente ospitali, quindi abbiamo speso tempo con loro, ci siamo conosciuti, abbiamo mangiato insieme l'ingera, bevuto la loro birra fermentata in amarico e in tigrinho, perché sono in due località diverse. In realtà tutto il nostro colloquio con questi contadini avviene attraverso studenti di dottorato della Scuola Superiore Sant'Anna, del dottorato di agrobiodiversità, che sono studenti, alcuni di questi sono studenti appunto dell'Etiopia. Ma che bello. Insomma. Ma come mai avete scelto proprio l'Etiopia? Sai che qualche sovranista direbbe: non avete scelto l'Italia, siete andati in Etiopia. Come mai è stata fatta questa scelta? Come sai, abbiamo dei trascorsi storici non precedificanti con l'Etiopia, ma il motivo per cui l'abbiamo scelta è perché è un posto, dal punto di vista biologico, agronomico, è un posto molto interessante, perché è un posto estremamente diverso dal punto di vista dei cereali che coltivano, e unico. Abbiamo visto anche dal punto di vista della genetica che le varietà di grano che coltivano in Etiopia sono molto diverse dalle nostre. In ogni caso, Matteo, e poi? No, stavi concludendo? No, nient'altro. E poi è un sistema agricolo del tutto peculiare, appunto la possibilità di studiare con questi contadini in sussistenza arriva anche dal fatto che in queste comunità ci sono appunto proprio dei contadini che da generazioni, da millenni stanno coltivando queste cose. Beh, insomma, questa è la dimostrazione, si può mettere insieme la tecnologia, l'innovazione, la ricerca italiana con un sistema ben radicato. Matteo Dell'Acqua, fondere le esperienze, sì. Ti ringraziamo davvero tantissimo, sei stato un funambolo, il funambolo del giorno. Alle 10:18 minuti, con un pizzico di ritardo, diamo le informazioni sul traffico. Ci dicono anche che assolutamente è un avverbio di cui non se ne può più. Assolutamente. Sì, l'ho letto anch'io. Chi è che dice assolutamente? Devi essere stato tu, per forza. Ma dicono che Di Pietro dica anche stabilito ciò. Ecco, fastidioso stabilito l'assolutamente ciò. Sì, questo secondo me. Assolutamente sì. Stabilito ciò non mi piace. Andiamo al traffico. Detto ciò, sì. I funamboli. Sì, chiamare la polizia sarebbe la cosa migliore, però generalmente quando la si chiama passano 10-15 minuti, minimo, arrivano con le sirene, quelli sono già scappati, non lo so. Sono pochi 2 caricatori, è partito con pochi caricatori, perché è arrivato il momento di dire basta. Ognuno corre il proprio rischio. Vieni in casa mia, ti stendo. E non me ne frega niente se non hai un'arma, non hai niente. Vieni in casa mia e ti stendo. Siete ipocriti a criticare chi parla di aprire come un branzino un ladro se entra in casa. E se succedesse a te, Veronica, o a Wallino Milan? Veramente io non l'ho molto criticato, però Veronica un po' sì. No, no, c'è una cosa che mi stupisce, che al di là di... Non si riesce a fare distinzioni tra una situazione e un'altra. No, la cosa che mi stupisce, al di là di tutto, è che tutti pensano di essere bravissimi col pistole, tutti più bravi dei ladri. Cioè, sì, non è detto. Tutti i pistoleri entrano in casa e fanno fuoco. No, non è neanche detto che ti apri in due come un branzino, magari ti prende il coltello e ti apre lui. Però questo è il fatto. No, però, no, che in realtà è molto più probabile, per cui io non è che mi immagino... Io che estraggo il fucile e improvvisamente divento, capito, Wonder Thanks Woman, Wheeler, prendo, sì, sparo e freddo io tutti. Io capisco. Sono terrorizzata gli ascoltatori, io capisco gli ascoltatori, io non mi ci vorrei mai trovare in quella situazione. Sentiamo comunque altri ascoltatori. Laura da Lecco, buongiorno Laura. Sì, buongiorno. Eccoci. Ecco, io volevo intervenire su questo dibattito perché mi rendo conto che per chi non ha subito una violenza, attenzione, questa è una violenza, non è un semplice ladro che ti entra in casa. Io sono stata, nella mia, diciamo, nella mia esperienza, sono stata svegliata nel cuore della notte da due loschi figuri, ero da sola nella mia casa, dormivo, da due loschi figuri che stavano rubando nel mio comodino. Quindi potete immaginare che cosa non è successo. Sì. Ecco, io vorrei porre questo problema. Allora, io non lo so che cosa ho pensato, perché posso solo, non lo so, sono stati attimi strani. So solo che a un certo punto mi sono messa a urlare come una pazza, vi uccido, e gli sono corsa anche dietro. Da allora però io non posso più dormire da sola. Io sono dovuta andare a casa di mia mamma per 2-3 anni, perché non riuscivo più a dormire. Ma loro sono andati via? Allora, è riuscita a metterli in fuga? Perché poi nel contempo, sono scappati perché poi si sentivano già le sirene dei carabinieri, per cui loro probabilmente si sono sentiti anche addosso i carabinieri e quindi sono scappati. Quello che io voglio dire è che in questa discussione sono molto d'accordo con l'avvocato Buongiorno, cioè chi entra in casa tua deve sapere che la reazione che tu puoi avere, ed è questo su cui vorrei far riflettere tutti, è la reazione. Neppure la persona vittima la conosce. Ma cioè, sono assolutamente d'accordo, Laura. Cioè, in quel momento... Io non avevo niente, non avevo pistole, non avevo niente, ci mancherebbe. Tuttora non ho niente, perché secondo me, sono d'accordo con voi, che per avere una pistola sotto il letto bisogna saperla usare. E bisogna altrimenti si rischia di fare peggio, di farsi male. Non soltanto saperla usare, avere il coraggio di usarla in quel momento. No, ma è chiaro, Laura, cioè voglio dire, i ladri sono addestrati anche a poter essere violenti. Una persona che è lì pacificamente a dormire, se si usa un'arma bisogna sapere che si può andare incontro a conseguenze molto gravi. Se lui è più bravo di te a sparare, ti può anche ammazzare. Questo sì, ma quindi uno cosa fare? Che io non ho la soluzione. Però oltretutto il caso di Laura ci ricorda che veramente la diversità di caso in caso, perché questo è proprio il caso emblematico di una situazione in cui si è veramente in uno enorme stato di turbamento sola e non si ha un mezzo di difesa reale. Altre situazioni sono quella del caso di oggi, da cui abbiamo riaperto il dibattito. Sì. In ogni caso vogliamo salutare, intanto il tema rimane sulla legittima difesa, chiamateci. Intanto salutiamo il direttore di oggi, Umberto Brindani. Direttore, buongiorno, ciao. Eccoci. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno caro. Interista. Aia, non abbiamo ancora superato il derby. Si riapre oggi la ferita. Mi è venuto in mente adesso che interista. Vabbè, tutto bene comunque. Tutto benissimo dopo domenica sera. Tutto va bene. Parte Icardi. No, ma basta. Peter Bescapè, che è milanista, ma è un masochista oltre che milanista. Non lo so. È vuoi regia. Mettere il piacere di veder soffrire te col soffrire lui? No, chiaramente allora Sceglie la prima opzione. Allora vogliamo. Lo sai chi sarà il prossimo a entrare nella casa del grande fratello Vito, vero? Montella. Chi? Montella. Quindi ho immaginato, non avrà più un lavoro, quindi Montello. No, povero Montellino. Mi era stato dato tra gli argomenti con cui prenderti in giro, ma non potendo maneggiarlo non l'ho utilizzato, Ale. Allora, vogliamo parlare di un tema che è questo. Allora, premessa, io ho due figli, Leonardo ha un figlio, Veronica no, ma... No, a me riguarda direttamente in prima persona, no, io una cosa di devo, cui parliamo devo dire, oggi. Io sinceramente non mi sognerei mai di portare i miei due figli a fare pubblicità, cioè a sfilare, a fare le pubblicità, andare sui set. Tu, Leonardo, che no, fai? Non mi è capitato, non ho neanche avuto questo desiderio ancora. E nemmeno lui, devo dire. Sembra che siano in tanti però quelli a cui invece viene in mente, proprio tanti tanti. Ma adesso non lo so se tanti tanti, però c'è un disegno di legge per cercare di modificare delle norme sui bambini che sfilano. Ci sono le foto, 6 anni, 7 anni, 8 anni. Umberto... Pare che il fatturato della moda junior in Italia sia di 2 miliardi 700 milioni di euro. Sì, però io vorrei capire quante persone portano i figli. Direttore, è giusto... Per carità, senza giudicare, però. Io ho un figlio che adesso ha 8 anni e confesso che quando era più piccolo, quindi 2, 3, 4 anni, era bellissimo, perché come sapete tutti i figli sono bellissimi per i genitori, a me la tentazione era venuta. Ah. E devo dire che mi sono, per fortuna, scontrato contro la deciso no di mia moglie Sabina, e quindi sono rimasto, diciamo, puro da questo punto di vista. Perché cosa ha detto tua moglie, Umberto, che non era d'accordo? Mai, mai e poi mai sfruttare nostro figlio, l'immagine di nostro figlio, anche se probabilmente si poteva fare qualche soldo, poi non credo tanti, perché a questo punto, da quello che leggo, c'è un mercato immenso. Infatti, ma perché non credo sia una questione economica, cioè no, è una questione di che cosa? Di gratificazione pubblica per il fatto che, solo che questa cosa, ho visto che c'è questo disegno di legge di questa parlamentare di Alternativa sì, Fabiola Popolare. Anitori, sì. Che tra un attimo sarà con noi, Fabiola che, Anitori. Tra l'altro mi fa piacere che Alternativa Popolare fa qualcosa di giusto, e questo non diciamoglielo che non è ancora collegata. No, altrimenti temo che non toccheremo più l'argomento di questo disegno di legge, ma sarà andata così. No, quindi insomma io penso che sia sacrosanto, perché c'è questa è cresciuta una sensibilità negli ultimi anni verso i minori, sì. No, lo sappiamo noi che facciamo il mestiere dei giornalisti, io devo, come si dice, pixelare i volti dei bambini perché sì, non devono essere riconoscibili. C'è un'attenzione giusta e spasmodica nella difesa di questi piccoli. E poi però non c'era nessuna norma che in qualche modo regolamentasse questo attacco. Allora, vediamo un po', perché l'abbiamo raggiunta. Senatrice Fabiola Anitori, buongiorno, Alternativa Popolare, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Era il direttore di Oggi, Umberto Brindani, che tra l'altro ha confessato che a suo tempo col suo figlio aveva avuto la tentazione di fargli fare una pubblicità sventata subito dalla moglie. Ma per i genitori è un'espansione del proprio io, in qualche modo. No? Sì. Senatrice, perché vuole mettere delle norme che tra l'altro vorrebbe dire aggiornare quelle del 1967, e che tipo di norme vorrebbe prevedere per i bambini che sfilano? Allora, innanzitutto la legge era, diciamo, datata, quella del 67, che prevedeva una circolare poi applicativa, ed è quella che, diciamo, del consenso informato, che va in giro, diciamo, tra i genitori che devono firmare questa circolare, questo consenso informato. Io a questo punto ho voluto mettere delle norme, a fare una norma, quindi una norma di legge, e a questo punto ho deciso di normarlo in modo un pochino più dettagliato, perché mancavano alcuni punti basilari, come per esempio la presenza di un pediatra in queste sfilate di moda, in queste quindi situazioni. Lei lo prevederebbe, un pediatra presente, perché invece nella circolare precedente era presente soltanto quando sotto un anno di vita, dopodiché diciamo, a chiamata poteva essere reso disponibile. Ma perché un pediatra, cioè un medico? Cosa succede a queste sfilate? Beh, perché a volte succede che è successo, insomma, è stato testimoniato che non gli danno da bere, che per non farli andare al bagno, quindi vengono sottoposti, diciamo, a delle anche situazioni. Anche l'elemento del trucco incide, per esempio. Leggevo che nel disegno di legge lei esclude il trucco fino ai 6 anni. Sì, perché prima dai 3 in poi potevano essere truccati. Quindi ovviamente dal punto di vista epidermico immagino non sia salutare, ma anche non solo quello, anche psicologico, ma non è solo quello, è l'immagine che noi vogliamo dare a sto fatta di un bambino. È quella la cosa che a me spaventa. Ma io dico, ma il buon senso non basta. Cioè, per esempio, a scuola le maestre dei miei figli, soprattutto della figlia, dicono: no, il rossetto no. La scuola è statale, dicono il rossetto su, non, lì, non. Lì però ha a che fare con la volontà della bimba, del bambino, che magari ha il desiderio di. Qui è un'altra cosa, cioè non è la volontà del bambino. Si richiede al bambino di avere determinati canoni estetici per vendere un prodotto. Quindi c'è un'aspettativa. Sì, e subentra sempre quel meccanismo per cui se stai facendo una cosa per i mass media, allora in qualche modo qualsiasi atteggiamento è legittimo. Insomma, quindi lo si può anche truccare. Oltretutto. Un'altra tematica è l'ipersessualizzazione dei bambini, che so che è stata anche una delle cose. C'è anche Dacia Maraini tra le promotrici di questo disegno di legge, vero? Diciamo, è stato un testimonial, perché è una promotrice ovviamente del disegno di legge, proprio perché noi ci rendiamo conto quanto poi nell'immaginario collettivo questa ipersessualizzazione delle bambine e dei minori in generale ha ricadute sulla società intera. Quindi certo. Non è soltanto normare e tutelare i bambini minori che va fatto, però è anche importante educare pure tutto, diciamo, tutto il resto del mondo. Sì, c'è da dire che ci sono varie proposte, poi insomma mettere al massimo di 5 ore di impegno a seconda dell'età, anche i decibel certo. Delle sfilate devono essere moderati, perché insomma i bambini... Qua, beh, direttore, nella norma del 67 poi rivista erano addirittura 80 o 90 decibel. Sì, non so quanti quindi, poi nel 67 portassero i bambini a fare, certo, le sfilate. Vi ricordate il film di Visconti? Bellissima no? Sì, sì. Con la Magnani che portava la bimba dappertutto. Piccolè! Però, direttore Brindani, c'è anche poi l'aspetto, è interessante qualcosa ci dicevi da direttore, di come trattare le foto, per esempio le foto di questi bambini possono essere pubblicate, no? Perché se c'è il consenso dei genitori... Sì, perché poi il problema alla base è che naturalmente sono i genitori che portano i figli e spingono i figli magari anche a stare 3 ore o 4 ore, come raccontava la senatrice, alla quale faccio i sinceri complimenti, ma vorrei farle una domanda. Questo è un disegno di legge, sì. E il Parlamento sta per essere sciolto fra pochi mesi, cioè sarà un altro dei tantissimi tanti disegni di legge che resteranno nel cassetto. Temo di sì, senatrice. Allora, temo di sì, però vista diciamo l'attenzione che c'è verso i minori, io poi sono anche segretaria della Commissione Femminicidio, quindi forse toccando le corde giuste almeno incardinarlo e vedere se possiamo fargli fare qualche passetto, poi non è detto nulla. Ma, poi, ma cioè sono quelle, sì. Quelle leggi che non dovrebbero essere discusse a lungo, voglio dire, no, il infatti, buon senso impone... Non essendo un argomento divisivo, come esperienza personale, io adesso ho un disegno di legge che è stato incardinato diciamo prima delle ferie estive, della sospensione estiva, ed è partito appena ripresi i lavori, già siamo alla fase emendativa e quello lo stiamo facendo in commissione in deliberante, probabilmente mi auguro, e sto incrociando le dita, quindi porterò a termine un disegno di legge quando è trasversalmente diciamo condiviso. Forse qualche piccolo spazio di riuscita c'è, insomma. Cioè, però direttore, mi sa che insomma la legislatura incombe. Bisognerebbe fare un disegno di legge che proibisce di presentare disegni di legge gli ultimi 6 mesi della legislatura. Allora, ma io me ne sono accorta tardi. che finiva la legislatura, no? Ci sono disegni di legge che giacciono da molti anni. Tardi. Se le può per piacere, quello che io sto cercando di portare a termine, che è sulle carte geologiche e la microzonazione sismica d'Italia, è iniziato, depositato il 5 di marzo e forse lo finiamo a fine novembre, quindi volendo si può, ecco. Volendo si può. Volendo si può. In ogni caso averlo lasciato e depositato, chiunque nella prossima legislatura lo potrà prendere, fare, implementarlo, quello che vuole. E se lo trova già bello e fatto con, no, con... Esatto, chiaro, ma esatto. Poi essendo materia condivisa appunto ed avendo un consenso immagino trasversale, perché assolutamente. Poi condivisa non lo so, Brindani, per concludere, magari le case di moda non sono molto favorevoli a questa regolamentazione, non lo so, tu magari le conosci meglio di noi, non so, anche le agenzie pubblicitarie probabilmente no, però cioè, siccome siamo in una, come dicevo prima, la sensibilità è cresciuta, oggi la tutela del minore va messa al primo posto in assoluto, credo che chiunque se ne debba fare una ragione. Sì. E dico alla senatrice che seguiremo questa sua battaglia anche sul nostro giornale. Ah, che bello, un invito proprio in diretta oggi. Va bene. Questo anche per Brindani e per fare mea culpa per essere stato tentato. Sì, questo no. Per aver avuto la tentazione. Per averci solo pensato è adesso. Anche, è anche un pizzico di mia culpa per averci rubato un rigore al 90esimo nel derby. Però non è tanto quello. Oh, sempre no, lì si torna, i bambini, la prole, niente, alla fine... Ringraziamo. Noi siamo i bambini, questa ecco. È la verità. Ringraziamo la senatrice. Saggio Umberto. Fabiola Nitori e Umberto Brindani di oggi. Dobbiamo andare a sentire la borsa. Rientriamo tra un attimo. I funamboli. Allora, ci avviamo nella parte conclusiva dei funamboli, anche oggi alle 10:42 minuti è il momento ma di... Ma anche la tua mamma non ti ha mai portato a sfilare bello com'eri? No. No? Ma no, ma che bello. Un po' di fardino sulle guance, un po' ma di rossettuccio. Leonardo, Leonardo ero bellissimo da bambino, un bambino bellissimo. Stupendo, anch'io. E cosa vorresti dire, che ora non lo sei più? Ma no, sono più bello adesso di prima. Migliora come il vino invecchiando. Allora signori, è il momento di chiamare in causa i nostri defurbizzati. Che bello, sono tornati quelli che fanno i furbi e che vogliono defurbizzarsi qui a Radio 24, perché si vergognano anche un pochettino secondo me. Eccola. Defurbizziamoci. Mamma mia ragazzi, ce la porteremo. È come quando prendi un cane brutto, dopo un po' cosa fai? Te lo tieni, ti ci affezioni e... Poi gli vuoi bene, poi quando ti liberano questa sigla soffrirai e dirai: ma Peter, una volta me la metti la mitragliata? Sì, m'era orrenda, però A me piace, devo dire. A te piace, vedi? Vedi? Sei già innamorato del cane orrendo. Allora c'è Salvatore che salutiamo, buongiorno Salvatore. Buongiorno ragazzi. Come va? C'ha già il piglio del furbacchione, del defurbizzato, wow. No, di certo. Salvatore, che combinavi tu tanti anni fa? Beh, dobbiamo andare a metà degli anni 70, quando ero giovane e bello. Praticamente io e mio amico andavamo a mangiare a sbaffo nei matrimoni che si facevano lungo la Tirreno, io vengo da quella zona lì, sulla Calabria Tirrenica. E poi lì i matrimoni durano anche tanto, quindi insomma credo che riuscisse ad imbottirti di cibo. Lì funzionava così: a mezzogiorno si sposano, alle 2 mangiano e vanno avanti fino alle 8 di sera. Tu almeno andavi alla cerimonia o ti imbucavi direttamente a pranzo? No, io mi imbucavo a pranzo, non potevo perché c'era il tavolo, c'erano state apparecchiate, no? Quindi la sera io e mio amico cosa facevamo? Quando poi iniziava la musica, sai, perché c'era l'orchestra con il ballo liscio e noi ci intrufolavamo lì. Con quello che era rimasto, quindi insomma, vi mangiavate gli avanzi? No, praticamente si mangiava dopo perché c'erano i panini e poi c'era la sera verso mezzanotte facevano gli spaghetti all'arrabbiata. Ah, cioè c'era la spaghettata di mezzanotte perché non si era mangiato abbastanza. Ma poi si poteva andare anche a fare la serenata agli sposi. Sì. Ma nessuno che dicesse, ma tu sei Salvatore, ma sei parente dello sposo, sei parente della sposa? Basta rispondere al contrario, no? No, ma il matrimonio, scusa. Vada, Salvatore. No, ma il discorso è che lì, no, siccome i matrimoni erano minimo 100 persone fino ad arrivare a 400 persone, nessuno ti notava, anche perché pensavano che tu eri invitato all'altra metà, dall'altra coppia della... E poi tra l'altro si beve anche parecchio ai matrimoni, quindi magari molti erano anche altici. Nessuno ti controllava, ma poi si andava lì, oltre per mangiare, per conquistare le ragazze, certo. 20 anni. Ma infatti io vorrei capire, tutti i benefit del matrimonio proprio, tutto quello che si può prendere a man bassa. Certo, perché noi lì non c'erano discoteche, non c'erano cinema, non c'era niente, era un modo per divertirci da questo. Ma infatti secondo me era più un modo per divertirsi piuttosto che per divertirsi, che ne abbiamo fatto una decina, poi vabbè, ognuno ha preso la sua propria strada. Però io leggo qui che non siete mai stati scoperti e anche i suoi figli poi lo hanno fatto, quindi una tradizione che si tramanda in famiglia, diciamo. Sì, mio figlio purtroppo ha fatto una cosa che me l'ha detto a distanza di anni, che vabbè, è un'altra storia questa qui. Comunque, questa non vogliamo sapere. No, poi sentite un'aria veramente contrita, quindi la deve aver fatta grossa il figlio. Non vogliamo sapere. Io vorrei saperlo, mi è incuriosito parecchio. No, ma era una furbata che ha fatto bene, ma non sto qui. Meglio di no. Facciamo così, Salvatore, diamo la patente di defurbizzato a Salvatore. Mi vergogno tuttora comunque. Allora, ma non ci crediamo tanto. E allora, allora la patente di defurbizzato deve arrivare. Insomma, defurbizzato. Mandatemi anche quelle dell'Inter, sai, io sono interista. Quella quindi. Dell'Inter, in realtà, cosa vorrei? La vera ragione per cui ho telefonato. Caro Salvatore, è la prima volta. Salvatore l'ho chiamato io, è una comparsa, e ha chiamato solo perché è dell'Inter. Non è mai successo nella storia dei funamboli, ma ritiriamo il defurbizzato, grazie. Devi riguadagnartelo in una successiva occasione. Andiamo al traffico. I funamboli. Il biondino. La bella signora e l'infiltrato. Buongiorno dai funamboli. Ci possiamo lavorare. Potrebbe diventare un reality questo. Ci possiamo lavorare con le vostre sigle, ma grande il nostro ascoltatore. È il primo che ci ha mandato una bella sigla completa al 349-238-6666. Vedi, Leonardo. È bravo. Ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. Bravo, ascoltatore. Bravo. Hai dato il là, secondo me. Capito cosa vogliamo? Sigle così. Dai. Che ce la fai. Oh, però, cara Veronica, guarda che è venuto a trovarci un personaggio nuovo. Sono sicuro che ti farà piacere, perché è uno psicologo. So che tu sei molto attenta. Io sono appassionata al tema. Sì, assolutamente sì. Diamo il buongiorno al dottor Janssen. Ringrazio Radio 24 per ospitalità, che mi dà possibilità di parlare di anche problemi, come risolvere problemi di psicologia che hanno le persone. Bene. Oggi c'è tante persone che hanno problemi di psicologia. Alla base di tutto c'è problema di insoddisfazione di vita quotidiana e quindi mio metodo di terapia è molto semplice. Fai fare a persone cose che fa stare bene. C'è anche canzone di Caparezzano, dice fai cose che fanno stare bene, non incaponirsi in abitudini che sono fonte di insoddisfazione. Perciò io voglio indicare a persone alcune cose da fare per fare stare bene. Cose che possono far stare bene persone per ritrovare serenità. Ecco, per esempio, io consiglio a persone di insultare voce automatica di Via Card. No, perché no? Quando tu arrivi a casello, metti tessera, Via Card dice arrivederci, tu insulta anche in modo pesante, povera con voce. Anche ingiurie. No! Cose anche parolacce pesanti. Quando voce di Via Card ti saluta, poi tu stai bene. Altra cosa da fare, amici ascoltatori di Radio 24, per stare bene, rubare in autogrill. Ma come rubare in autogrill? È sufficiente rubare piccola cosa, anche baretta di cioccolato. Dottor Janssen, no. Dà sensazione di onnipotenza, di averla fatta franca. Poi si va in galera. Ruba barette di cioccolato in autogrill, ti fa stare bene. No, ascoltatori, no. Guardate, no. Fare sesso a insaputa di tuo marito o tua moglie. Ma fa stare bene. Non lo so. Ti elimina da doveri coniugali, fa tornare ragazzo quando tu facevi sesso senza tutto un figlio cane da portare sotto 3-4-5 volte al giorno, stai di mattina che è una rottura di maroni. Fai sesso fuori da matrimonio, ma da sposato che dà soddisfazione. Fai cose che ti fa stare bene, bivi alcolici. No. 7-8 moderatamente. 7-8 ciupiti. No, dottore. Ma così, dottore, stanno bene, sì. Ciupito fa bene. Ti libera da inibizioni, tu ci puoi provare con cassiera di bar, ti fa stare bene. Soprattutto buttare briciole da balcone su altri balconi di altri appartamenti. Fa stare bene. Provoca grande piacere, soprattutto se vicini di casa e fastidiosi. Io faccio andare apposta cibo andare a male per poi buttarlo su balconi di vicino di casa quando il cibo è putrido, puzza. buttare cibo putrido su balconi di vicini fa stare bene. Ma insomma, adesso. E poi fa stare bene portarti a letto donne di tuo migliore amico. No, ma dai. È una piccola trasgressione che fa stare bene. Ma piccola. Ma piccola, e dà soddisfazione, fa stare bene, soprattutto ma se... Ma non l'amico però. Ma chi è? Tu devi stare bene in psicologia, ah, chi se ne frega di altri? Tu è mio cliente, altro andrà da altro psicologo. Ah, va bene, giusto. Sono fatti suoi. Di farlo con la moglie. Con la moglie. Questo non è, non ma fa una grinta. Risolvo problemi di mio paziente, poi insultare ausiliari del traffico. No. Fa stare bene, io tutte mattine insulto ausiliari del traffico. Ma poveri. Perché arbitro tu puoi insultare solo una volta a due a settimana, isoliare un mal del traffico tutte le mattine, con parolacce pesanti, no, come voce di Via Card, ma più pesanti. Ricordatevi amici che se voi riuscirete a fare queste piccole cose che fa stare bene, bere ciupito, portarti a letto donna di tuo migliore amico, buttare cibo putrido su altri balconi, poi tu rubare barette di cioccolati in autogrill, giorno dopo tu è più sereno e sta meglio. Io le voglio bene ma mi dissocio un attimo. No, vabbè, io provo oggi, eh. No. Dai, che devo tanto fare? Ci chiedono, ma da dove viene lei, kosovaro, rumeno, dottor? Io è di origine europea, oggi tutti dobbiamo essere europei, la grande Europa. Non che dobbiamo essere collocati, ma tu insulta anche Unione Europea, che fa stare bene. Certo. Deve fare cose che fa stare bene. Credo, Veronica, che comunque mi farà piacere riospitarlo, il dottor Janssen. No, ma dà dei suggerimenti assolutamente pacifici e che facilitano la convivenza. Sì, soprattutto. Sì, assolutamente. Rubare barette di cioccolato. Smettila, in autogrill. Dottor Janssen, adesso si contenga. Dobbiamo conviene cominciare a insultare la voce della Via Card, perché dobbiamo... è l'unica che non ha effetti collaterali. Concludere qui con i funamboli. Dai, ci troviamo domani, Leonardo.